È uscito giovedì il nuovo film Enea di Pietro Castellitto e Pietro Castellitto, guarda qua, per magia è qui in diretta. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Un nome impegnativo hai scelto per questo film, che è il tuo secondo film da regista, e però è come se chiudesse una trilogia romana, o è un caso? Dimmi un po', cioè ci ho fatto caso. Quello, il libro Iperborei, sì. Il primo film, I Predatori, poi gli Iperborei e poi c'è questo Enea. Esattamente. È un caso, no? No, no, insomma, Roma è una città a cui devo tanto. È sempre sembrato naturale partire da Roma. E poi il flusso di scrittura forse è lo stesso degli Iperborei, insomma, quello che mi ha portato anche a scrivere Enea, cioè, indagando certi mondi. Poi, insomma, mi ero ritrovato con parecchio materiale accumulato. E mi è venuto appunto naturale poi scrivere questo film. Dove la famiglia è al centro. Raccontiamo, sì, un po' la storia. Io non voglio fare Fabio Fazio che racconta le trame, sì. Non voglio dire niente. La faccio raccontare direttamente a chi l'ha scritto, l'ha diretto e l'ha pure interpretato. Ecco. Io sono scarsissimo a fare la sinossi dei film, insomma. Pure dei tuoi. Soprattutto dei miei. Vabbè, diciamo, do una mano. Esatto. Dammi una mano, sì. Dunque, Enea è un ragazzo di buona famiglia. Esattamente. Che ha un locale, un ristorante di sushi. Sì, sì. Ma non solo quello. Frequenta un circoli sportivi. Ha il suo miglior amico che si chiama Valentino, che insomma che fa è un novello pilota. Sì, che è interpretato da Giorgio Quarzo Guarascio. Che sarebbe Tutti i Fenomeni. Io lo dico per chi ascolta un certo tipo di musica rap romana, poi in particolare. Sì, sì, ecco, sì. Ha la sua prima esperienza di attore. Esattamente. Esatto. Che all'inizio del film conosce una ragazza di cui insomma si innamora, che si chiama Eva. Interpretata da Benedetta Porcaroli. Okay. E però insomma se la vita che frequenta, se i posti che frequenta possono essere elitari, però quello che poi lo porterà a compiere dei gesti criminali è un vitalismo tipico della gioventù che riguarda tutti i giovani di qualsiasi estrazione sociale, e perché poi appunto ad un certo punto capiremo che Enea spaccia anche. Sì, esatto. Gli viene proposto questa cosa e probabilmente lo faceva anche già, però non a quei livelli. Gli viene proposto di piazzare un enorme carico di droga. Mo non ci andrà più nessuno al cinema. Cioè, le sinossi no, purtroppo dai! Sono. Vabbè, giusto per far capire il contesto, per esempio, i genitori sono Chiara Noschese, i tuoi genitori, quelli di, sì, Enea. Esatto. E tuo padre, nella realtà, che è Sergio Castellitto. Ora, io lo so che è una domanda. E mio fratello nel film. Mio fratello nella Cesare. Realtà. Cesare. Ah, ecco, Cesare proprio. Sì. E che tu tratti un po' così. Lo tratti male, ma lo tratti male anche nella realtà? Ma insomma è più lui che mi tratta male, assolutamente. Anche perché oramai è più grosso di me. E quindi insomma venivo salvato dallo stop. Ah, dello stop set. Delle scene. Sì, sì, sì. Se non ve menavate. Nella vita purtroppo poi non c'è lo stop, quindi nella vita vi menate. Devo stare attento a battere il chakra. Mi pare di aver notato che ne volano. Però quando è stato tuo padre a proporsi, oppure sei stato tu a chiedere a lui, ti va di fare mio papà anche nel film? Mio padre è sempre il primo che legge le mie sceneggiature e ogni volta che leggendole rintraccia qualche personaggio che lui potenzialmente può interpretare, da qualche parte me lo chiede senza chiedermelo. E anche in questo caso, insomma, voleva. Si è proposto, diciamo, senza dirmelo, però però io non volevo, mi sembrava sempre. Non lo so, è un appuntamento dal quale scappavo, perché poi avevo sempre pensato che il primo film con mio padre sarebbe stato un film dove magari lui era protagonista, cioè. Che sarebbe proprio nato con quell'idea, invece poi mi sono reso conto che era perfetto così, insomma, perfetto. Che nessuno come papà sarebbe stato in grado, no, di intercettare alcune sfumature del personaggio. Esatto, sfumature anche comiche, divertenti, ci sono, sì, dei momenti belli, ci sono delle lettere, per esempio quella che riceve da un suo ex paziente, da un bambino che lui aveva curato, perché lui è uno psichiatra, insomma psicologo, sì. Che è veramente molto toccante. Allora, c'è una canzone che fa un po' da leitmotiv di questo film, che è Spiagge di Renato Zero, su cui tu poi hai da dire delle cose, ma prima ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo con Pietro Castellitto su Radio Capital. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute in questa azzurrità, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge, i corpi abbandonati, gli attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra vera va, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge. Di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Un'altra vera va, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge dipinte in cartoni. Tu mi scrivi, poi torna tutto come prima. L'inverno passerà tra la noia e le piogge, ma una speranza c'è che ci siano nuove spiagge. La canzone che è Spiagge di Renato Zero nel film viene cantata e anche un po' storpiata, nel senso che viene rifatta, da Giorgio Quarzo Guarascio. Ma tu all'inizio non avevi proprio pensato a questa, cioè non dico che non ti piaceva, perché toccare Renato Zero è toccare tipo Francesco Totti, certo. Non si può, però non era fra le tue preferite. No, assolutamente no. Ah, no, non è vero, no, ho letto male, no, allora. No, assolutamente, questa qui è sempre stata, è una canzone che ascoltavo, che ho sempre amato, che l'ascoltavo anche mentre scrivo il film, e poi cominciai a storpiarla, quindi è entrata nel film attraverso la scena finale, dove appunto Giorgio, dove il personaggio di Valentino, cambiando le parole di quella canzone, rivela a sua madre il suo segreto. Però poi mi sembrava talmente bella che mi sembrava anche giusto farla tornare più volte durante tutta la storia, quindi no. Poi il Renato Zero per me è stato un rivoluzionario vero. Vero. Che genere di musica ascolti, Pietro? Ma un po' tutta. Però tutti questi cantanti, questi grandi cantautori che hanno fatto anche la storia della, e che magari, insomma, sì, i miei genitori ascoltavano quando erano ragazzi, hanno un carico nostalgico incredibile, perché poi anche io li ascoltavo da piccolino e sono stati, non hanno eredi, ecco. Sono assolutamente d'accordo. Infatti eredi. Mi ha stupito che tu abbia contattato tutti i fenomeni, cioè Giorgio, sì, Guarascio, perché non so se lo ascoltavi, come sei entrato in contatto con lui e con un altro universo rispetto appunto alla musica che tu hai ascoltato e con cui sei cresciuto. Giorgio lo ascoltavo mentre scrivevo la sceneggiatura, anche lui me l'ha fatto conoscere mia sorella un paio d'anni prima che iniziassi a scrivere Enea, quindi lo conoscevo da parecchio tempo, però lo conoscevo come musicista. Un giorno voglio andare a cercarmi qualche sua intervista e quindi guardandomelo, sentendolo parlare, vedendolo, notai in lui proprio una temperatura umana che non era rintracciabile nel cinema italiano. Quindi, è vero. E quindi ho pensato che era perfetto per questa storia. È perfetto anche per quel ruolo, va detta una cosa. Sì, sì. Allora, tu sfuggi un po' quando ti dicono sei rappresentante di una generazione, quella dei trentenni. Tu hai 32 anni, no? 32, sbagli. Sì. 32. Però io dico anche una cosa: questo film, da una parte, ha appena fatti, eh? Sì, a dicembre, sì, no? Sì, dicembre. Sei Scorpio, no, Sagittario, scusami, sono sbagliato. Cioè, tanta ferocia nel film e tanto romanticismo, che poi però è un po' quello che di cui si nutrono i ragazzi, cioè o bianco o nero, non esiste il grigio, non esiste uno stato d'animo di mezzo, o c'è l'allegria sfrenata o c'è la depressione, sbaglio? Sì, io sì, nel senso che io dico sempre che il male in questo film l'ho criticato difendendolo. Perché poi per me era molto più importante, no, rimanere anche sulla purezza degli occhi dei personaggi, sulla loro volontà di capirsi, di capire il mondo, di rendere la propria vita avventurosa. Ed Enea ha pur frequentando ambienti corrotti, ha una nostalgia gazebiana, insomma, è sempre sembrato così mentre lo scrivevo. Una purezza, diciamo, una purezza d'animo. Sì. E anche il personaggio di Eva, insomma, da questo punto di vista è il trionfo. Poi devo dire grazie agli attori, perché insomma poi uno dei personaggi le cose le scrive, però poi insomma sono gli attori che rilanciano le cose che scrivi e le rendono simboliche. E le fanno vivere nel vero senso della parola. Sì, sì. Allora, c'è una scena con cui poi saluto Pietro, che è una cena di Natale, un pranzo di Natale, non so qual è, che tu hai girato con la tua stessa famiglia, cioè esatto. Noi possiamo intravedere i tuoi zii, ci sono anche delle foto di tuo padre da giovane. Ma ti sei ispirato per caso, hai visto la scena di Natale della serie The Bear? Dell'ultima stagione? No, non l'hai vista. No, non l'ho vista. No, guardala, perché è l'esatto opposto. Ah, l'esatto opposto. Cioè, è proprio il bene e il male. Tu hai fatto il bene, sì, e di là c'è il male. C'è il male. Ah, sì, sì, però sì, è una cosa che mi ha fatto venire in mente. Ho detto, no, questo per me era importante, no, che far vedere come poi in realtà Enea venisse da una famiglia per bene. Esatto. La genealogia familiare di Enea proprio avesse radici in quell'Italia popolare, del popolo, piena di aneddoti belli da raccontare, sì, Natale, dalla quale tutti in realtà discendiamo. Esatto, con le ricette che si passano le zie, no? Esatto, l'une esatto. con le altre, classico. Pietro Castellitto, grazie per essere stato con noi. Enea vi aspetta al cinema e noi ti aspettiamo anche per il tuo prossimo film. Non so quando sarà, ma questo studio è aperto. Perfetto, vi aspetto fuori dal cinema. Grazie, che non è una minaccia. No, Ciao. No. Radio Capital.